Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Molti dei prodotti di maggior pregio della tradizione enogastronomica italiana richiedono un periodo più o meno lungo di stagionatura oppure di invecchiamento, in condizioni di temperature e di umidità controllate del tipo che una volta si trovavano solo nelle grotte o sotto qualche metro di terra all'interno di profonde cantine ipogee. Nel corso del Novecento queste tradizioni sono state quasi del tutto abbandonate dall'industria agroalimentare, che ha preferito invece affidarsi a frigoriferi, caldaie e condizionatori, i cui costi però, tra energia consumata, energia che è sempre meno a basso costo, e manutenzione, sono diventati sempre più significativi. Ebbene, se riportare vini e formaggi in grotta è tuttavia poco praticabile, quello che si può fare è, diciamo così, portare la grotta intorno ai vini e ai formaggi. Ne parliamo con Franco Venturini, progettista e ideatore di Energade, che sta per Energy Gain Active Insulation Device, e cioè una cella di stagionatura per l'industria agri-food a consumo energia quasi zero, che è stata sperimentata per oltre un anno dalla ERSAF, cioè l'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste della regione Lombardia. Buonasera Venturini, benvenuto. Buonasera a tutti. Senta, allora, questa cella è una specie di involucro intelligente. Beh, è un involucro sostanzialmente costruito con del materiale isolante, all'interno del quale viene annegato un circuito che consente di ridurre pressoché a zero gli scambi tra l'ambiente interno e l'ambiente esterno. Ecco, un circuito, l'hai detto, un circuito tubi dell'acqua, un circuito idraulico. All'interno del circuito, nel caso dell'impianto pilota, viene fatto scorrere direttamente del fluido proveniente da falda. In quel caso è stato utilizzato proprio l'impianto di pompaggio del pozzo esistente lì presso la struttura ERSAF. E circolando questo fluido che cosa fa? Tutta la parte opaca dell'involucro di questa cella è coinvolta in questa circolazione, che fondamentalmente ovviamente non interessa assolutamente l'isolamento termico, lo lascia perfettamente asciutto, ma ne condiziona la temperatura degli strati interni. Grazie a questo il flusso di calore che incide sulla parete esterna viene intercettato. Diciamo, il sole picchia fuori, picchia su questa cantina, diciamo così. Il flusso di calore viene appunto intercettato per poi essere portato verso l'esterno dell'involucro. No, non fa in tempo ad arrivare dentro questo calore, perché il flusso di acqua lo porta via e lo scarica di nuovo nella falda, immagino, no? Perché quest'acqua voi la tirate su, poi da qualche parte la metterete. In questo caso di impianto pilota sì, è stato pensato di scaricare, perché la quantità in gioco e anche il tempo della sperimentazione era modesto. Insomma, l'avete buttato in una struttura industriale si può pensare o al riutilizzo dell'acqua per altri scopi alla reimmissione in falda tramite un altro pozzo per limitarne certo, i consumi. Certo. Senta, se non c'è acqua di falda, perché questa naturalmente è fantastica, perché sottoterra si trovano già temperature ideali, 13, 14, 15 gradi, quindi voi fate circolare quest'acqua e raffreddate, anzi schermate questa cella, perché la stessa acqua potrebbe circolare d'inverno e vi manterrebbe sempre in temperatura la vostra cantina più o meno. No? Sì, nel caso dell'impianto pilota le temperature che dovevamo mantenere sono di 17 gradi più o meno 1 per tutti i 365 giorni all'anno. Se quest'acqua di falda non è disponibile, si può fare lo stesso questo giochino? Ma giochini simili si possono fare utilizzando quello che può essere chiamato un geoscambio, quindi uno scambio di calore tramite sonde immerse nel terreno. Tipo le sonde geotermiche? Tipo? Sì, esatto. Con questa modalità, in buona sostanza, il calore, come dicevamo prima, sottratto alla parete durante la fase estiva, va a, tra virgolette, riscaldare, quindi ricaricare quel serbatoio termico a terreno, e calore che poi viene sfruttato nella fase invernale per mantenere appunto le pareti in temperatura. E viceversa, no? Quindi voi, diciamo che così, durante l'inverno voi raffreddate un pezzo di terreno che vi servirà da riserva di freddo per l'estate, e durante l'estate riscaldate un pezzo di terreno che vi può servire da riserva di calore invece per l'inverno. È un po' così, se ho capito bene. Giustissimo, sì. sì, sì. E a che punto siete con il progetto? La fase sperimentale ha dato risultati molto confortanti, adesso stiamo colloquiando con delle industrie, cerchiamo ovviamente partner che possano essere interessati a una sperimentazione su una grandezza reale. Grazie Venturini. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.